che ha servito, servito. Numero cittadino. Ah no. Dimmi se lo domani, Giorgia. Lo bestiare. Chi è? Non lo posso sopportare. Mi stavo già pensionando, si vede. Ci sono passati 4 mesi, bro. Non si sa com'è. Vabbè, scappo, C'era il circo Zanfetta che stava cercando una per tale bulloni. Allora ando, quella c'è gli altri. Che lei? Quando è commentato, Sermo. Vabbè, vabbè signori, ci sentiamo, dai. Ciao a todos. Io la nella sua canale. No. Tu? Mi siete spostati? Niente, troppo di meno. Gianni, Natalino, Antonio, Pierpaolo, ci siete? Hola, hola! Siete? Siamo tutti qui. Adriano? Sì. Sono qua, al centro, lì, perché su questa... Sì, sono qua. Ah, vi ascolto, sì. Purtroppo quella frequenza è adibita a quelle robe lì. Ma mi sembra strano che Gianni non senta, non ascolti quei rumorini tipo segnali digitali. Gianni, è impossibile che non ne ascolti. No, ne ascolto. Non ho qua niente. Non va nemmeno là. Vai sull'11 Alfa ci sono, in tutti i canali Alfa ci sono. Si sentiva solo forzante e basta. No, oh, non sento neanche niente io, è tutto pulito. No, bene. Gianni. Oia. Parliamo del pesce. Parla. Parliamo di cose. Parlate di cose. Avete parlato in due, appena detto parlate di cose, Gianni e Pierpaolo mi sembra che siete sovrammutati. Parlate di cose, avanti Pierpaolo. No, io posso parlare di cose, Gianni parla di cloche. Se lui gli piace le cloche. Tu? A chi ha fatto questo? Cimitero di mattina, cazzo mi hai detto di sera, sto uscendo adesso, devo per forza devo andare, ci vediamo dopo. Ricordati, siccome gli hanno messo un alberello di nata se fai la tomba, mi va detto, e mi ha detto, portalo via perché mi è passato poi il prossimo anno, vabbè, ci vediamo stasera, sono tornati di sera, torno a casa e vanno in Catanzaro, che mio padre gli ha detto di togliere una zona del prato nell'angolo e piantare l'alberello suo. Ascoltami, mi ha detto di andare a prenderlo, al massimo lo posso rimbalzare e mettere in un altro più grande se cresce, ma non è che nessuno lo tratto per mettere l'alberello, La sera il discorso non me l'ha preso, e gli ho preso io, ma detto, questo alberello guarda che io non lo devo mettere in giardino, non devo fare tutto il mio prato, già basta com'è, e fa, no, io non è che ho detto, al limite stava bene anche nel giardino, sì, no, ma il giardino sta bene, come gli ho detto, perché non ho messo la palma nell'angolo, che se no mi tolgo tutto il verde e ci metto l'alberello adesso, l'alberello lo invaso quando ci sta, e poi lo pianteremo in campagna al limite. Fai come vuoi, da solo un'idea, tanto non fa molte radici, sì, vabbè, ma va bene così. Dai, io ce la dovevo sparare ora. Ma non ho capito la puntata, hai capito? Tu mi hai detto che te l'aveva già detto, ma io ero in fretta già, lui mi ha parlato di portarlo via da lì, non di piantarlo in giardino a me. E poi l'albero cresce, non è così che deve essere piccolino. No, se vai a Vittoria non puoi, se guardo le mie radici, te le porti via un metro quadro di giardino. No, ma non per quello, proprio di piantarlo e boh, perché in un anno praticamente diventa alto un metro, mi ha detto, ma più o meno l'avevamo preso così, poi la madre l'ha piantata in un vaso era già alto un metro, quindi non lo puoi neanche più mettere lì nella sughe della lapide, capito? Era proprio per piantarlo e lasciarlo lì. Un attimo, vediamo che mi squilla. Pietro e Mauretto sono partiti prima di scendere io al porto perché sono sceso a meno un quarto e i rimorchi erano già a terra e Roberto mi stava rompendo i coglioni dal telefono, dove ero. Oh, poi dopo se ci sentiamo per cavolo, ricordami che devo dire una cosa su quest'ultimo che abbiamo nominato. Niente. Ricollegato a quello che mi aveva detto Sandro. Yeah. Oh, comunque ho parlato, ero con Radio Internazionale. Prima che me ne dimentico, guarda che dietro sei, ogni tanto ho un occhio, quindi se c'è macchina dietro dai un colpettino di freno perché ti manca l'occhio dalla parte della guida, capito? Non so mai ti si sbatta qualcuno di là. Scappa, te la formiamo la lampadina? No, perché hai due lampadine dietro funzionanti e sono tutte e due si spengono, capito? Ma che problema nella presa? Sì, la spinetta del fanale. Facendo male i denti, puttana neva, oggi non mi ha portato neanche lo spazzolino, solitamente me lo porto. Ma non hai visto che in un minuto me ne sono già da tre, se me ne davi altri, mamma mia, non arrivavo neanche a Olbia. E allora se mi sto portando lo spazzolino, perché se mangio porcherie, se non mi lavo i denti deve esserci qualche buco, qualche retta, qualche parte, volo. Ma salto, proprio sai con le fitte, ding! E allora mi sto portando lo spazzolino, ristano, o me li lavo prima ad addormentarmi o quando mi sto svegliando mi devo sciacquata perché sennò sto tutta la notte con questa pulsazione. Infatti bisogna che vada a fare qualche visita, sennò più avanti sono muccio di nero. Muccio di nero e muccio cazzotti. Comunque da quel ragazzone non li segue per niente, consiglia. Guarderemo. Perché a suo tempo devo essere attento con chi parlava, è arrivato lì e ha solo tutto il sacco. Chi te l'ha detto? Radio. Cappa. Cioè, oh, ancora non aveva capito perché bisogna fare per forza così, ho detto, ho fatto questo tornato perché ho fatto un casino nello telefono, non ho capito perché, per un mese, un paio di mesi da una rivolta all'altra, minchia ancora,